Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte, quella che state per ascoltare sarà la nostra 337esima trasmissione. E le voci che ascolterete sono di Caterina che vi sta parlando, Rosina e nella registrazione che abbiamo programmato ascolterete anche Lucilla. In questa trasmissione noi del CLR siamo tutte un po' tristi perché una nostra compagna, una nostra carissima compagna Simonetta ci ha lasciate e non possiamo proprio fare a meno di ricordarla e lo faremo leggendo un suo scritto. Riservandoci quando saremo tutte un po' più calme di organizzare una trasmissione su di lei che era quel che si dice una lesbo femminista storica, veramente una donna eccezionale. A seguire poi in questa trasmissione manderemo la registrazione della presentazione dell'ultimo libro di Margherita Giacobino, Il prezzo del sogno, nel quale si dipana la storia di Patricia Highsmith. Presentazione che si è svolta alla Casa Internazionale delle Donne lo scorso 5 febbraio, evento organizzato insieme dal CLR e dalle Donne del Quesbilè. Bene, ora ascoltiamo il brano Miss Brown to You dalla splendida voce di Dee Bridgewater. Buon ascolto. Guess who? A lovable huggable Emily Brown, Miss Brown to you. What if the rain comes thundering down? My heaven is blue. Can a bee send me Emily Brown, Miss Brown to you? I know her eyes will fill you, but go slow, oh oh. Don't you all get too familiar? Why do you think she's coming to town? Just wait and you'll see the lovable little Miss Brown to you. It to me. Per noi eri un mito, anche prima, non era necessario che te ne andassi. Il tuo appoggio alle nostre iniziative c'era sempre, anche quando ci facevi notare le incongruenze, le contraddizioni o gli errori. Le tue critiche non valutavano, interloquivano. Ti aspettavi semmai che motivassimo le nostre scelte politiche e culturali. La tua voce, inconfondibile, bassa, roca, sapeva tuonare quando era necessario contro la stupidità, la volgarità, come dicevi tu. E ancora tu, appoggiata allo stipite della porta e in piedi, come a dire «ci sto, mi interessa, ma devo correre via, devo andare. Abbiamo condiviso veramente tanto, tanta politica, tante iniziative, tanti progetti, tanto discutere. Vogliamo condividere con te ancora una volta un tuo pensiero sulla felicità che ti disegna così come eri e che noi condividiamo come se fosse uscito dalle nostre teste e dalle nostre bocche. Ancora una volta, grazie Simonetta. Cos'è la felicità per te? Mi pone la domanda con la sua aria tranquilla, Pina, come se mi chiedesse se voglio lo zucchero nel caffè e non mi invitasse ad una riflessione politica. L'amicizia è un peso, penso fra me e me, quella politica è una iattura, ma tant'è. Mi si fa il vuoto nella testa, rintracciare la felicità in un periodo in cui la volgarità si fa costume e imbarbarisce i rapporti sociali e l'omologazione al ribasso è la regola, mi sembra impresa titanica al di fuori di una connotazione molto intima. Dopo mesi di assenza e di email, telefonate veloci, sta tornando a Roma la mia compagna. Ma riflettere che il privato è l'unica cosa che mi rende felice mi fa montare la rabbia e mi restituisce una energia che si è opacizzata. E allora penso che per me felicità è essere ancora capace di rabbia. Quando ero un'adolescente stritolata tra il delirio d'onnipotenza e la mancanza di strumenti per governarlo, mi dicevo con rabbia: contro di me non ce la potranno fare. Riuscire a provare ancora oggi rabbia per le discriminazioni, l'incultura generalizzata, il machismo ossessivo e ossessionante, la violenza, mi fa ricordare che almeno in parte, e grazie a donne che con me hanno pensato, lottato, che mi hanno costretto e mi costringono a non essere imbecille, uno spazio di libertà si è salvato e non si arrende e fa barriera contro la tentazione di lasciarsi andare ad un quieto vivere senza domande o senza la speranza di risposte. La rabbia è la marcia di riserva che continua a farmi funzionare, anche quando mi sembra che ogni azione politica, nel senso di tesa a costruire una società civile e civilizzata, non sia altro che cercare di volare senza ali. La rabbia è le mie ali e mi rende felice. La rabbia impedisce la nostalgia, il cullarsi nel ricordo di ciò che è stato, marmorizzandolo in una dimensione mitica in cui tutto si è giocato, si è vinto e si è perso. Un tempo immobile che non contempla evoluzioni, perché ogni evoluzione appannerebbe la dimensione mitica del ricordo. La nostalgia uccide la politica, perché non ci possono essere comunanze di pensiero e di intenti tra donne che vivono ingessate nel ricordo di un clima culturale e politico che giudicano irripetibile, come è irripetibile la giovinezza, e che considerano con sufficienza tutto ciò che si tenta di nuovo e di diverso per contrastare la redistribuzione dell'ingiustizia che gli eventi storico-economici producono. E le giovani generazioni strette tra i problemi del presente e l'irrilevanza nella quale si sentono ridotte perché sono nate troppo tardi per vivere il 68, il femminismo, escluse quindi per semplici dati anagrafici dai mitici anni 70. E questo sembra far dimenticare una delle grandi lezioni del femminismo stesso, che aveva coalizzato problemi e rabbia di generazioni diverse. Ho vissuto, pensato, sognato con donne dell'età di mia madre e con donne giovanissime, per farne un cuneo contro l'immobilismo misogino imperante, e aveva ricercato con pazienza e ostinazione infinite scritti e tracce delle donne del passato per ricostruire genealogie che rappresentassero ponti in un percorso proiettato verso il futuro. Al contrario della nostalgia, che implica rassegnazione, la rabbia politica costruisce futuro, perché mi fa pensare che finché sarò viva, la mia rabbia farà rete con la rabbia di altre donne. Non importa di quali generazioni, insofferenti del clima razzista, intollerante, falsamente democratico in cui siamo immerse, e che quando la mia generazione sarà sparita, ci sarà forse qualcuna che, come abbiamo fatto noi, andrà a cercare tracce sepolte di una rabbia che sentirà nella sostanza simile alla sua e con strumenti diversi, adeguati al suo tempo, andrà a costruire il suo percorso di ricerca e di libertà. Al contrario della nostalgia, la rabbia mantiene nel presente, nel qui e ora, impone di trovare strategie, alleanze, modalità politiche adeguate ad una realtà socio-economica globalizzata che è in continuo mutamento. Impone di pensare e di pensarsi al di là degli schemi tradizionali. Impone di inventare o di utilizzare nuove forme di comunicazione e nuove modalità di condivisione. E forse se non subisce involuzioni autodistruttive e diventa la spinta della passione politica, proprio la rabbia può rappresentare un primo momento di condivisione. Per questo, sentirmela ribollire dentro mi rende a volte, mio malgrado, felice.

modello cartaceo un po' obsoleto, ma alcune lo preferiscono, indirizzando a CLR presso Casa Internazionale della Donna, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Allora, terminate le modalità di contatto, diamo il via alla registrazione della presentazione del libro di Margherita Giacobino, Il prezzo del sogno. Buon ascolto. Siamo nuovamente con Margherita e presentiamo la sua ultima fatica, che è Il prezzo del sogno. Allora, prima di entrare proprio nel libro, anche se chi c'era ieri ha già sentito alcune cose su Margherita, ma c'è anche chi ieri non c'era, ci fa piacere presentare un po' Margherita. Margherita Giacobino, sappiamo che è torinese, sappiamo che ha più di 60 anni sicuramente, visto che ha scritto per 60. No. Abbiamo detto, non è detto anche le quarantenne l'hanno, non è detto, allora anche non le diciottenne potevano. Allora non sveliamo l'età di Margherita, un'età indefinita da 0 a 1000. Poco sopra 60, va bene? Così. È autrice, scrittrice e traduttrice, autodidatta per molti versi, per quello che riguarda le lingue, se ricordo bene, comunque è un lavoro grossissimo, sì. Perché poi ha tradotto libri, portandoli in Italia, libri che diversamente non sarebbero arrivati a noi, ha esordito con dei racconti strepitosi, io la ricordo veramente molti anni fa, con per esempio un'americana a Parigi, che per me insomma fu un'esplosione di gioia e di felicità, e poi ha scritto tantissimi altri libri, tantissimi altri racconti, e lì ce n'è una parte, collabora a tutt'oggi con Aspirina, che è una rivista satirica online, e a tantissimi altri progetti. E l'anno scorso, in ordine di apparizione, dico dunque, abbiamo presentato la penultima fatica di Margherita, che era Ritratto di famiglia con bambina grassa, che per la prima volta è stato pubblicato, mi sembra che sia stata la prima pubblicazione per Mondadori tua. Sì. Esatto. E quest'anno è uscito il 24 di gennaio, questo Il prezzo del sogno, sempre per Mondadori, e ormai diciamo che la nostra Margherita è lanciatissima, è talmente lanciata che ha bucato anche la TV, e l'ha bucata il 28 di gennaio, un orario un po' tardo, però ce l'ha fatta ed è stata intervistata da Marzullo, e io ho visto l'intervista e devo dire che è interessante, perché anche se forse in alcuni momenti sembrava che le volessero far dire altre cose, Margherita ha detto quello che doveva dire ed è stata veramente molto interessante. No, veramente, se ti posso interrompere, a un certo punto mi viene fatta una domanda che non ho capito, ma totale, che non ho capito di cosa, perché secondo me lui era già un po' stanco, poi non si era fatto lo shampoo lui, questo l'ha detto prima di iniziare la trasmissione, aveva problemi di capelli. E allora, siccome quando sono una domanda che non capisci, non puoi star lì, sei davanti a dire mi scusi, ma cos'è che intendeva, ma perché... Io sono andata avanti per conto mio. Quindi svelato anche l'arcano. Però quello... se volete potete digitare su YouTube, non è bellissimo, se digitate Marzullo Giacobino, quindi vi appare la prima cosa, sono, avete presente l'intervista a due facce, vi appare proprio la faccia di Marzullo e la faccia di Margherita, quindi potete andarla a sentire, insomma l'intervista è molto comunque carina, sì. E quindi va bene. Allora, di che cosa parla questo libro? Questo libro, come lei l'ha definito, è una biografia romanzata, poi lei ci spiegherà perché, parla di Patricia Highsmith, che è, diciamo, una contemporanea, anche se è morta, diciamo, il secolo scorso o l'altro millennio, ma è morta nel 95, se non vado errata. 22 anni fa. Ecco. Quindi insomma sono tanti anni, però è una nostra contemporanea, cioè noi siamo tutte queste qui, almeno siamo nate nell'altro millennio, no? Quindi va bene, quindi è almeno una nostra contemporanea. E quindi quello che è interessante è come lei descrive questo personaggio, un personaggio veramente molto particolare. E preferiremmo, prima ancora di addentrarci nelle domande, di farci raccontare da Margherita il perché, il per come, il per dunque, eccetera, eccetera, assaggiamo dei pezzettini che vanno a delineare Patricia Highsmith così come ce la vuole raccontare, ce l'ha raccontata Margherita. Inizia Nancy, sono piccoli tratti. Per chi non la conosce bene, Pat è una ragazza espansiva che sa reggere l'alcol e scala le battute, e quasi tutti la trovano simpatica, anche se un po' bizzarra. Ma che direbbero se sospettassero i furori, le brame, i folli desideri e le persistenti ossessioni che si agitano dentro di lei? La sua personalità profonda è un abisso di emozioni inconfessabili che lei viviseziona incessantemente. Niente a che vedere con l'immagine stereotipata della ragazza estroversa, a cominciare dai suoi sentimenti per la madre e la famiglia, passando per il suo bisogno patologico di innamorarsi, fino a un umorismo che spesso gli altri trovano raggelante, e ovviamente, collante e colore di fondo che tutto impregna, la sua omosessualità. L'omosessualità è il soggetto sempre presente, così lo chiamano i suoi quaderni, in cui instancabilmente travasa la vita, il sogno e il movimento del pensiero. Sotto l'acronimo NOEPS, Not So Ever Present Subject, si nascondono gli appunti preparatori alla grande enciclopedia della doppia o plurima identità che sarà il corpus dei suoi romanzi. Pat si rese conto di essere una fuorilegge, fuori da quella legge che è puro arbitrio. Nient'altro che convenzione al servizio di un potere che domina l'individuo, annientandone l'intelligenza critica, spacciando bugie. La gente si adatta o si fa complice perché tutto sommato non ha molto da perdere. Ma se uno non è in grado di adattarsi, se non vuole perdere la sola cosa che ha, se stesso, non gli resta che la clandestinità. Pat non vuole né perdersi né rinunciare alle sue emozioni più belle, che sono anche le più terribili. Quindi per lei non c'è estasi senza vergogna, non c'è orgoglio senza terrore, e la sola verità consiste nel coniare moneta falsa. E tutto ciò è meravigliosamente ispirante per una scrittrice, ma sta diventando troppo faticoso da vivere. Scrivo in camera da letto perché scrivere e dormire sono due attività affini. Entrambe richiedono liberarsi dal pensiero conscio e poi avere un letto vicino al comodo. Se voglio schiacciare un pisolino durante il lavoro, non devo spostarmi. Un pisolino è spesso risolutivo: ti addormenti con un problema, ti svegli con una soluzione. Il cervello lavora per te mentre tu dormi. Realtà e verità non sono la stessa cosa, sono due cose diverse, a volte inconciliabili. Cosa leggo prima di addormentarmi? Il dizionario. È l'unico libro che non racconti frottole. Non sono mai stata discriminata in quanto donna. Nel mio mestiere il fatto di essere uomo o donna non fa nessuna differenza. Non ho niente da dire alle giovani donne. Non posso essere un ideale per nessuno. Nessuna vita può essere presa a modello, tantomeno la mia. Le giovani donne non hanno bisogno di me. Sono più forti, più audaci, più libere. Cosa se ne farebbero di un prudere come me? Io non potrei mai essere una criminale. Sono troppo rispettosa della legge. Quando passo accanto ad un poliziotto mi sento sempre la coscienza sporca, penso che venga ad arrestarmi, anche se non ho fatto niente. È per questo che i criminali mi affascinano, sono liberi, sfidano la paura, sono creativi, non conoscono confini. Gli amori passano, il lavoro resta. Non ritengo che la mia vita sentimentale sia di interesse per i lettori. Sì, ho convissuto con una persona 3-4 volte, mai a lungo. La vita di coppia non è fatta per me, devo sentirmi libera. Sì, erano donne, sì. Nessuna donna protagonista, non l'ha mai scritto sui suoi quaderni, e del resto non è una regola né una conclusione, ma un punto di partenza, la constatazione di una impossibilità. Le donne non sono libere di muoversi, di agire e cambiare, sono incatenate al luogo, la casa, la famiglia e al loro corpo di carne, alla loro identità cristallizzata, immutabile, una prigione. Soltanto Carol e Teresa hanno fatto eccezione, perché non sono donne. Non nel senso comune della parola, e non sono neanche le girls, sono quella cosa rara e forse soltanto sognata, esseri umani interi. Ma adesso, nei suoi 50 anni, che sono gli anni 70 del secolo, comincia a pensare di scrivere una storia che riguarda invece proprio una donna, una apparentemente come tante, una casalinga. Cosa succede, si chiede, se la casalinga è una donna che pensa, che legge i giornali, si appassiona, si indigna, ha delle opinioni? Una donna che cucina, lava, stira, pulisce, fa la serva per gli uomini di casa, i quali non si rendono neppure conto che sta lavorando, eppure pensa. Una donna come potrebbe essere lei, Pat, se tanti anni fa avesse sposato Ned. Se avesse imboccato una via senza uscita. La chiamerà Edith. Sarà ancora giovane, istruita, piena di energie e di progetti, come sembrano essere le donne in questi anni, pronta a criticare e cambiare il mondo, ma incapace di rivolgere lo sguardo a se stessa, di vedere il muro che sbarra la sua esistenza da ogni parte, che le si stringe addosso ogni giorno di più. Sarà divertente, pensa, infilando un altro foglio nella macchina da scrivere. La scrittura è una droga. È per questo che chi si è assuefatto non riesce a smettere, non per la notorietà e i soldi, cose che la Pat, non ancora trentenne, non ha ottenuto e di cui spesso dispera, ma per il flash nella testa e tutto il corpo. Un po' come volare senza peso, al di sopra di ogni cosa. O come la botta di energia, di lucidità, di potenza che ti dà l'alcol nei momenti migliori della sgornia, prima di renderti conto che le gambe non ti reggono, le parole ti sfuggono e domani ti sentirai un verme. Chi di voi non ha mai provato questa cosa? Io sì, ma non sono scrittore. Ma la scrittura non ha questi sgradevoli effetti secondari. O come il sogno, quando nel momento del risveglio sei in grado di prolungare le sensazioni sognate e di pilotare la storia verso la meta desiderata. Ma tutto questo solo per un attimo, prima che la razionalità del giorno venga a distruggere la trama delicata, fotosensibile, tessuta dal sonno. La scrittura è il prolungamento di quegli attimi squisiti, oltre i limiti del tempo e dello spazio. Per raggiungere la condizione propizia al miracolo bisogna attraversare strati preparatori e condizioni imperfette, superare ostacoli, ci vogliono silenzio, mente sgombra, la certezza di avere davanti a sé ore di tempo, una macchina da scrivere che funzioni, una scorta di fogli bianchi e di caffè, nessun seccatore che bussi alla tua porta. E ancora, bisogna aver dormito bene, seppure non necessariamente a lungo, sofferto pene d'amore in misura stimolante ma non invalidante, sperimentato l'umana imperfezione quanto basta per lanciarsi temerariamente in una nuova avventura, ma non al punto di disperare di sé ed essere indotti a mollare il lavoro per andare a cercare avventure di altro genere in un bar. Ecco, in questa maniera abbiamo tratteggiato Patricia Highsmith, Pat, come la chiama in maniera amicale, direi, per tutto il libro, e quindi Margherita, e quindi perché abbiamo scelto, perché di leggere prima, di presentarvela così attraverso le emozioni che ci ha fatto provare, almeno per me è vero, è questo che mi ha fatto provare, quindi Margherita, perché leggendo sono, ho avuto la voglia di andarmi a vedere le varie fotografie, le ho cercate su internet, no, per vederla. E perché già la scrittura, già la tratteggiatura del libro me la faceva vedere in carne ed ossa, e dalla prima fotografia all'ultima, da quando era molto giovane a quando invece era vecchia, devo dire che era proprio così come la rappresenta, è in carne ed ossa nel libro, quindi bellissimo, almeno per me è stato così. E allora, qualche domanda a Margherita, così adesso diamo la stura, perché lo definisci una biografia romanzata? Punto primo. Come ti è venuta in mente l'idea di scrivere proprio di Patricia Highsmith? Perché lei? E perché questo libro così congegnato? E quanti anni di lavoro ti ci sono voluti e quali sono state le fonti? Così intanto lei spazia e ci racconta, almeno sul piano della costruzione del libro, come è andata. Poi andremo ad altro. Va bene. Allora, innanzitutto vi ringrazio che siete qua, soprattutto ringrazio quelle che sono tornate, che sono state, insomma, disposte a fare un replay in questo sabato. E grazie per avermi invitata, perché vabbè, questo libro per me è una soddisfazione grossa. Forse devo dire il primo libro che mi riesce in toto come l'avevo sognato, che non è male, compreso la copertina, che è proprio esattamente quella che ho voluto io e perché la fortuna mi ha concesso di avere. Allora, perché biografia romanzata? Perché è quello che è, vale a dire, è la vita di Patricia Highsmith vista da me. Se uno vuole sapere esattamente che cosa ha fatto lei quel giorno o come si chiamava esattamente quella persona lì, non deve rivolgersi al mio libro, perché io ho interpretato, ho rifatto. Se uno vuole sapere che tipo di persona era e quali avventure ha vissuto Patricia Highsmith, penso che si può rivolgere, che percorso esistenziale, penso che si può rivolgere a questo libro. È un po' come un ritratto, no? Allora, perché questo? Io sono partita, se tu mi hai chiesto il mio percorso, ho cominciato a occuparmi di Asmi tanti anni fa, adesso non mi ricordo manco quando. È stata una delle donne che mi sono piaciute, che mi hanno interessato, perché a me piacciono le donne, ho capito che mi piacciono le donne fuori un po' ribelli, mi sono sempre piaciute, fuori dalla norma, fuori dai limiti, anche sgradevoli e antipatiche, mi piacciono molto, perché penso che la verità sta da quelle parti lì. Difficilmente la verità sta in una persona carina, come diceva Dorothy Allison, che è un'altra amica mia, non è solo una scrittrice che io ho tradotto, ma è diventata una nostra amica, è una persona meravigliosa, dice: nessuno, io non sono nice, non sono per bene, non sono carina, e nessuna delle persone di cui mi importa lo è. Quindi io concordo pienamente. Diciamo che appunto lei è andata via dall'America perché cercava la verità che in America non trovava, non cercava in Europa. Io credo che vado a cercare la verità in quelle donne lì. Allora, infatti io mi sono occupata sempre di questo tipo di donne, no? Anche Audre Lorde, e non era una persona facile, era un'altra di queste, perché poi noi adesso la vediamo come una mitizzata Santa Audre, ma Santa Audre era una persona dura, difficile, ed è stato proprio perché le cose che lei ha detto e fatto, per esempio sul cancro, che sono quelle che mi hanno conquistato al primo, e sono cose che difficilmente proponibili, difficilmente, e secondo me molto vere. Ecco, io vado a cercare quel tipo di cose. Allora, ho cominciato a lavorare su di lei per quello. Mi avevano chiesto di fare un corso, ho fatto anche un corso su di lei, la biblioteca di Torino, eccetera, e poi a un certo punto ho cominciato, presa la vita di scrivere un'opera critica su Highsmith, ho cominciato a cercare sui documenti. Esiste un copiosissimo lascito, che non un lascito, un armadio Highsmith alla biblioteca svizzera, si chiama al Literary Archive, gli archivi letterari svizzeri di Berna. Lei glieli ha venduti, perché era molto accorta e tirchiona, ne li ha venduti, non lasciati, in eredità, tramite il suo editore, a cui lei aveva ceduto l'intera proprietà dei suoi diritti, che negli ultimi anni le ha procurato questo affare, gli ultimissimi mesi, diciamo, della sua vita, questo affare. Questi documenti sono divisi in diari, taccuini e varie. Allora, i diari sono quelli che contengono le cose, lei ha sempre scritto moltissimo, è la scrittura privata, no? I diari sono quelli che contengono i cosiddetti dati sensibili, con chi sono andata a letto, chi è quella stronza, cosa ha detto, cosa ha fatto, cioè cose che si deve un pochettino trattare con le pinze. Alcune delle persone di cui si parla nei diari hanno minacciato l'archivio svizzero di letteratura, cioè hanno diffidato dal diffondere il loro nome, altre no. Cioè, ci sono due biografie di Highsmith, comunque, i taccuini, poi scusate, la biografia, mi avete chiesto questa cosa tecnica, certo, posso, devi, certo. I taccuini invece sono quelli in cui lei scriveva, prendeva appunti per i libri che aveva scritto, però le due cose tendono quasi costantemente a mescolarsi, perché vita e scrittura si confondono, no? Come avete già. Quindi tracimano un po' la scrittura, tracimano i diari, il personale tracimano i taccuini. Poi ci sono anche degli album con delle fotografie, degli appunti, poi ci sono delle lettere. Lei, poiché teneva tutto, cosa per cui è stata molto criticata, si faceva in linea di massima anche una copia delle proprie lettere, una copia carbone. Quindi ci sono delle lettere degli altri, delle lettere sue. No, lei era una... quasi ossessiva riesaminatrice della sua vita, no? Lei viveva immersa in un sacco amniotico di scrittura, diciamolo, se capite. Allora, io vado in questo... Lei gli ha detto, praticamente la sua posizione è stata: fino a che sono viva non ficcate il naso, quando sarò morta fate quello che volete. L'archivio svizzero di letteratura è un po' imbarazzato dalla presenza, imbarazzante, direi. Tutti gli scrittori sono un po' imbarazzanti, ma è scritto abbastanza in maniera spiccata. Inoltre loro sono stato trilingue, devono già gestirsi una sezione tedesca, una francese, una italiana, e gli è arrivato pure sto malloppone inglese. Non sanno bene cosa farne. Allora hanno deciso, per rispettare le volontà della defunta, pur facendo il mago d'oro, insomma, di aprire a tutti i taccuini, ma soltanto a chi si è dimostrato affidabile, i diari. Allora tu devi andare, prendere il treno, andare a Zurigo a parlare con i depositari del, cosa che io ho fatto, insomma, mi hanno vista, hanno visto che non ero pericolosa, io sono risultata affidabile. E quindi ho avuto accesso, non li ho letti tutti, sono andata un certo numero di volte, ho letto e guardato e decifrato, perché sono, fortunatamente a un certo punto ho cominciato a scrivere almeno le lettere a macchina, ma se no sempre la sua scrittura è anche un po' a volte difficile. Comunque ho dato un'occhiata abbastanza, diciamo, ponderosa, impegnativa, durata giorni, settimane, alla sua scrittura. Questo è stato il lavoro. Ho letto, ci sono due biografie su di lei, una è stata scritta da un giornalista inglese, una biografia esaustiva, fin troppo, c'è tanto materiale. Perché dico fin troppo? Perché accumulare notizie tende a un po' a distrarti da un percorso preciso. Un'altra l'ha scritta un'altra studiosa, all'editore non gli piaceva tanto la prima, allora hanno dato incarico a quest'altra, Joan Schenker, una studiosa americana, la quale ci ha lavorato 8 anni, e a un certo punto, più andava avanti, più si rendeva conto che lei Asmith non la sopportava. È uscito questo tomo di 500-600 pagine in che trasuda odio, antipatia, insofferenza e rancore per questo lavoro, e si vede, io devo dire, si vede, non è una cosa bella. Anche lì ci sono notizie, però insomma non... Poi ci sono alcuni studi critici, ma pochi, perché lei è una che ha veramente sfidato i critici, no? I critici ancora adesso non sanno come inquadrarlo. Poi c'erano malloppi di articoli, interviste molto ripetitive, lei concedeva pochissimo agli intervistatori. Insomma, c'è questo materiale. Io l'ho visto, l'ho letto, l'ho studiato, eccetera, e poi a un certo punto ho scritto il saggio critico. Io ho nel computer un bel saggio critico su Asmith, di cui non ne frega niente a nessuno. La mia agente, che peraltro non tratta tanto quella cosa lì, lei è stata brava, la mia agente è bravissima, comunque non è riuscita a piazzare. Poi ho cominciato a lavorare, a un certo punto ho detto, ma forse devo scrivere un romanzo su di lei, forse la cosa giusta è scrivere un romanzo. Allora, questa è la terza versione del romanzo, gli altri erano più complicati, le facevo fare cose che lei non aveva fatto. A un certo punto io ho preso solamente la sua vita, ho detto, no, quello che devo fare è il romanzo della sua vita. E ho fatto questo libro, ecco, il risultato è questo. E in cui c'è qualcosa che lei non ha fatto, per esempio c'è un racconto che lei non ha scritto, alla fine c'è un breve racconto verso la fine che lei non ha scritto, io l'ho messo, poi ho detto, lei questo racconto non l'ha scritto, che è un modo di, cioè, anche questo è scrittura. Tutto quello che c'è qua dentro non è citazione testuale da Asmith, è mia interpretazione dei fatti, è la mia visione di lei, è la mia visione e lettura della sua vita, e le parti in cui dice io, perché c'è un'intersecazione continua tra un brano in terza persona e brano in prima persona, cioè i suoi brani di diario, le sue lettere, le parti in cui dice io le ho totalmente riscritte. Questo perché le ho riscritte, come dire, in primo perché devono essere funzionali al mio racconto in quel momento, no? Così come uno che dipinga un ritratto fa un ritratto, ma non è che riproduce, come mi dice, al laser le fattezze di quella persona. Cioè, vede, mette sulla tela la sua visione. E secondo, perché avrei avuto dei problemi di copyright assolutamente folli se avessi copiato fra pezzi interi. Ecco, non so se ho risposto alla tua domanda. Penso di aver detto più o meno tutto. Assolutamente sì. Posso fare una domanda sulla, sempre rispetto al libro. Il titolo Il prezzo del sogno è naturalmente un riferimento al primo titolo che fu dato a Carol, che era Dillo, che era Il prezzo, Del sale, quindi poi viene cambia titolo, insomma, è Carol. Tra l'altro la parola sogno è una parola che spesso sì, viene proprio scritta. Tu hai pagato un prezzo per questo libro? In che senso? Non lo so, te lo chiedo. Aspetta, il prezzo di questo tuo sogno. Devo dire che la domanda era Marzullo, La domanda è alla Marzullo, sei d'accordo? È alla Marzullo, no. ma io quello che vi ho detto, scusate, ci ho lavorato per anni, ho scritto un saggio che non mi ha fregato niente a nessuno. Ho scritto due romanzi che evidentemente non andavano bene, prima di scrivere il terzo mi sembra che il prezzo era... Quindi questo c'è stato un bel prezzo anche per te, vero? Tutti i sogni hanno un prezzo, perché non è che sia vera se uno così sta a guardare il soffitto. Allora, l'hai pagato anche tu. Mi interessa dire, prima di procedere con un altro pezzo di lettura, che è fra l'altro il leitmotiv del libro e della vita di Patricia, mi interessa soltanto, ha fatto un riferimento interessante proprio sulla vita dell'Highsmith, che se ne parte dagli Stati Uniti. Lei detesta gli Stati Uniti, anche se poi rimane legata ovviamente. Ma soprattutto la critica che lei fa, ed è riportata poi, insomma, se lo leggerete, è pari quello che penso io e che credo che possano pensare tante persone, no? È la critica ai costumi e al pensiero, al tipo di pensiero collettivo americano che lo definisce, che Highsmith definisce ipocrita e falso. La via della felicità è quello, no? Il sogno americano, che tu puoi, se vuoi, puoi, potere, puoi, diciamo, quelle cose... da spot pubblicitari. Ecco, lei, Patricia, era estremamente critica e non, su questo piano non ha mai fatto sconti. Poi vedrete che lei ha anche un grosso legame con la politica, anche se sembra vivere ai margini, e lo dimostrerà anche attraverso delle lettere che lei scrive. Ma procediamo con ordine, andiamo su quello che è l'argomento sempre presente, che è già stato accennato da Nancy in una lettura, e andiamo un po' a vedere che è l'omosessualità, cioè che è l'aspetto identitario di Pat, e quindi quali sono le regole di sopravvivenza che lei mette insieme. Che le mette insieme Patricia o le mette insieme Margherita o tutte e due? Patricia e Margherita mettono insieme queste regole, questo lo andremo a scoprire poi. Rosy legge. L'argomento sempre presente. Per tutta la vita Pat porta con sé l'idea ricorrente di scrivere su quello che non si può dire. Non solo la sua omosessualità, ma anche i suoi amori molteplici e il bisogno di non rinunciare a nessuno di essi. Oggi forse si direbbe il suo poliamorismo, in ogni caso il suo orrore per la monogamia, in quanto menzogna e tradimento della verità, ovvero l'eterno, ubiquo desiderio. Non parlare di donne, se non per ucciderle. Non parlare di sé, queste sono le regole della sopravvivenza come autrice. Ma nei quaderni torna a germogliare il seme di un romanzo in prima persona che nei primi anni 60 cresce in una piantina gracile, incapace di giungere a maturità. La sua protagonista è una donna sposata che ha una relazione con un'altra donna e un amore in corso con una ragazza. La narrazione è una lunga lettera in cui la donna racconta il suo passato, una madre anticonvenzionale, amata e prematuramente defunta, un grande amore con un'altra donna stroncato dalle pressioni familiari e sociali, e spiega le ragioni della sua scelta non monogamica. Nella vita di ogni scrittore ci sono semi che non danno frutto, piantine che avvizziscono prima di crescere o vengono distrutte dalla stagione inclemente. Romanzi mai scritti, o solo in parte, e che non leggeremo mai, ma la vita di ogni scrittore è un lungo sforzo, quasi un combattimento per far germogliare proprio i semi più improbabili, una battaglia spesso persa per ampliare i confini del discibile. Lo leggiamo anche questo degli anni 70 che ci piace molto? Sì, lo leggiamo. È negli anni 70 che le donne d'Occidente cambiano il mondo, o più modestamente il mondo delle donne cambia e i confini dei divieti si fanno più fluttuanti, meno ferri. Pat Highsmith forse non ne prenderebbe atto se non fosse per le ragazze che incontra, Le giovani donne degli anni 70, Tonetta, Andrea, Valerie e altre, sono diverse da quelle dei decenni precedenti e per qualche anno Andrea Stern le rappresenta e le sintetizza tutte, come Carol riuniva in sé tutte le belle donne sventate e coraggiose di New York. Le ragazze degli anni 70 sono la speranza, il riscatto, non hanno paura, non hanno vergogna, sono splendidamente libere e sicure di sé. O così le vede Pat, ma lo sono davvero? Quanto è forte, quanto è vera la loro libertà? Quanto sono ampie e potenti le loro ali? Non sono più ali di pietra come quelle della Nike, ma forse di falena, che vola veloce, impazzita, attorno alla luce, il sesso, il desiderio, rischiando di bruciarsi o di essere schiantata dall'urlo brutale del mondo. Allora, quindi, come vedete, è molto ampio il pensiero dell'Highsmith, anche se nei suoi libri, quelli che l'hanno resa celebre, i personaggi che, e soprattutto le trasposizioni cinematografiche, perché l'Highsmith poi ha sfondato anche per quel motivo, è stata più conosciuta anche per quel motivo. Ma da quello che si capisce, si delinea nella biografia romanzata di Margherita è che Pat attinge alla sua vita per scrivere, quindi sia che attraverso le riflessioni che poi lei fa nei suoi diari, che legge e rilegge, come diceva prima Margherita, ma anche rispetto ai desideri, cioè scrivere andando incontro ai propri desideri oppure allontanandosene, comunque è sempre riferimento alla propria vita. È così? Margherita, è così? Oppure è vero anche per te? Per te che? Per la tua esperienza di scrittrice, ovviamente. Ma io penso che il rapporto tra vita e scrittura sia una cosa che, come dire, che qualunque scrittore vive questa intensità e complessità del rapporto tra vita e scrittura. In particolare per lei, quello che mi ha molto affascinato e che io ho cercato di raccontare è stato come lei ha affrontato i propri fantasmi, le proprie paure, come ha come è cambiato nel corso della sua, dei suoi 50 anni di scrittura, il rapporto con le donne e insomma quello che è affiorato, no? Quello che lei ha lasciato affiorare. Lei seguiva un metodo che era appunto di immersione nel sé. Lei praticava il travestitismo in letteratura, nel senso che lei si travestiva da uomo, si identificava con personaggi uomini, lei scrive quasi sempre di uomini. Ma se chi ha un attento alla lettrice dei suoi libri appare che ci sono tanti filoni e tanti momenti. Nel primo momento della sua scrittura i suoi personaggi sono ancora legati a una visione moralistica, sono tutti uomini, sono legati a una visione più convenzionale, cioè il delitto viene punito, anche se a lei gli sta più simpatico l'assassino, fin dall'inizio. Le donne appaiono in due modi, la donna ideale che all'inizio è molto molto sfumata e la realissima megera che diventa vittima dell'assassino. La megera è la donna americana tipica, autoritaria, tirannica, che fa della sua dipendenza economica e affettiva dall'uomo un'arma di, per soggiogare, per sottomettere e tartassare l'uomo. E spesso si riferisce sempre a sua madre. E si riferisce, lei c'è un modello esimio che è quello della mamma, e poi lei poi cerca delle donne così, per esempio ha una relazione con quella che io nel libro chiamo Lucy, che è proprio, che io mi sono divertita molto a scrivere di Lucy, ma era la realtà. Lucy la tartassava dalla mattina alla sera. E lei si va a cercare per anni questo tipo di donne, mentre sullo sfondo campeggia la donna ideale che è invece una donna. Alla care, è Carol, cioè è la donna cool, non curante, generosa e coraggiosa, ma anche sfuggente, inaffidabile, è la donna che beve, è la donna che sfida il mondo, che va in crisi quello che è la nicchia dalle ali di pietra, la Vittoria, e poi ho anche commentato, la nicchia anche a Cefala e in effetti anche Carol era spesso senza testa. Cioè è questo tipo di donna che perde, che ha coraggio, ma perde, anche se lei l'ha fatta vincere nel suo libro, ma nella sua diciamo storia, nella sua esperienza, queste donne perdevano la battaglia con il mondo. Quindi all'inizio ci muoviamo tra questa cosa, poi a un certo punto questo suo ossessivo seguire il senso di colpa, che è il grande ispiratore della sua vita, il senso di colpa è tutto il luogo in cui si va a infilare la sua omosessualità, la sua incapacità di stare al mondo e affrontare i rapporti sociali, la sua incapacità di soddisfare sua madre. Tutte queste cose messe insieme fanno il malloppo del senso di colpa che produce letteratura e produce personaggi che infrangono la legge. Il secondo passaggio, quando arriva Ripley in scena, è che i personaggi che infrangono la legge non vengono più puniti. Ripley non ha senso di colpa, dunque non è colpevole, dunque non verrà punito. Se per tutto un lungo periodo questi personaggi, cioè le donne non compaiono come vittime, a un certo punto la situazione comincia a cambiare negli anni, e cambia quando il mondo cambia attorno a lei, negli anni 60-70. Compare Edith, per esempio, che è la donna eterosessuale, la casalinga, impazzita, la casalinga impazzisce perché non è in grado di confessare a se stessa la propria infelicità. Ma a un dato momento compare, lei comincia a incontrare le ragazze, quelle che hanno 20 anni meno di lei, 30 anni meno di lei, che sono diverse dalle donne che lei incontrava in America negli anni, o anche incontrato in Europa, negli anni 40-50. Sono diverse, sono molto più aggressive, spavalde, sicure di sé, stanno bene, sono felici, sono creative, lavorano. Lei aveva, per lei una cosa fondamentale era che le donne lavorassero. Lei era molto emancipazionista, punti penso fondamentali avrebbe potuto sparare se gli avessero a chi poteva negare il lavoro, un altro punto per lei cos'era l'aborto, il diritto della donna all'autodeterminazione. Quindi in questo momento cominciano a comparire delle ragazze che echeggiano pallidamente quell'unico esempio di donna vincente, forte e coraggiosa che lei ha osato fare, che è appunto quelle che sono Carol e Therese. E pian pianino arriva con l'ultimo libro a una conciliazione con la sua omosessualità e arriva a immaginare un mondo in cui c'è una comunità gay e lesbica che si sostiene, si dà una mano, si fa giustizia da sé e finalmente viene, diciamo, muore la strega omofoba, no? Cioè, bisogna leggere i suoi libri un po' come favole, un po' come percorsi interiori dell'inconscio molto profondo, no? E come inestricabili connessioni di, appunto, di, cioè come anche lotta contro le sue paure, e questo grandissimo lavoro sulla contraddizione che lei ha fatto. Lei, proprio per il suo tipo di scrittura, per il suo tipo, lei non ideologizza mai. Lei prende veramente la contraddizione umana così come viene fuori, come sgorga dal profondo, e la fa diventare materia di scrittura. Cosa ha fatto per farsi? Ha semplicemente messo dei panni maschili ai suoi personaggi e li ha resi praticamente asessuati. Ha fatto queste due piccole operazioni. Poi poteva ma questo lo faceva da Jane Austen, scusate, cioè è una cosa che le scrittrici hanno sempre fatto, anche se lei l'ha fatto in maniera più consapevole, più pronunciata. Ecco, niente, questo è, secondo me, poi chiunque scrive in maniera non così, non biecamente venale, è chiaro che ha dei momenti della sua, cioè c'è una corrispondenza tra vita e scrittura, ci sono dei passaggi, dei cambiamenti, certo, profondi. Certo. La cosa da dire, tornando alla vita dell'Highsmith, è che la sua fortuna poi come autrice è stata anche determinata dal fatto che poi sui suoi libri e su Ripley, appunto, sono stati fatti un sacco di film, da Hitchcock, non solo, ma Alain Delon ha interpretato Wenders, eccetera, come registi ma anche come attori. e quindi sono stati proprio film importanti che lei ha sempre però detestato, perché questa è, cioè, lei non ha, insomma, era come se poi vederli rappresentati comunque trasferiti in modo che il regista comunque li reinterpretava, è come se poi alla fine non gli corrispondessero più, non fossero più le sue creature, e comunque hanno spesso cambiato anche il finale, cambiato proprio il senso della vicenda. Certo, certo. E però cioè, per lei era come diceva, e come appunto si capisce dal libro rispetto a quello che ci ha voluto far capire, voluto far scoprire Margherita dell'Highsmith, era appunto un profondo viaggio dentro se stessa, e quindi questi personaggi che lei rappresentava, così come ha appena detto Margherita, erano anche un po' la sua rivincita, no? E quindi la possibilità di scrollarsi di dosso cose abbastanza pesanti, perché poi lo troverete nel libro, comunque per chi un minimo conosce la storia di Patricia Highsmith e chi no, però insomma ha avuto una madre terribile ed è stata abbandonata dalla madre, perché lei è vissuta con la madre se n'è andata, l'ha lasciata con la nonna, poi se l'è ripresa per un periodo per poi lasciarla nuovamente, perché c'aveva appunto l'uomo di turno, quello che poi spolpava o comunque che graneggiava, mettiamola così. Ma lei si è sposata, cioè la madre è stato il suo primo amore, lei ha vissuto come forse molte donne che senza padre, diciamo, hanno vissuto questo attaccamento esclusivo, e ha patito molto la coppia che si è formata, il patrigno, fino al momento in cui poi si è resa conto che probabilmente il patrigno non era tanto un oppressore, ma era anche lui vittima della mamma, no? Perché il rapporto con la mamma si è andato, insomma, cioè questa donna era incontentabile, ecco. Eh sì, una madre terribile e molto longeva, tra l'altro. Molto longeva, si vede sotto questo racconto dal titolo Non si vede la fine. Pagava la renta. Lei non ha 50 anni, a 50 anni ha trovato il coraggio di rompere con la mamma. E gliel'ha scritto, e poi chiuso, la mamma ha dato un po'. No, a un certo punto ha avuto l'Alzheimer, insomma, ha dato fuoco alla casa, era un po' distratta. In occasione di questo exploit l'hanno ricoverata. Ma i manoscritti che lei non ha mai recuperato. Esatto, però. Bruciando le cose sulla mamma, è uscita lasciando la sigaretta accesa e la casa è andata fuori. L'hanno ricoverata in una clinica, lei pagava la retta. Sì. E sotto continuava a pagare, questo racconto ha ipotizzato, scusa, questa vecchia signora che vive fino a 250 anni, che ormai non muore più. E quindi non si vede mai la fine. E poi è stata anche profetica, perché in realtà nel racconto la figlia moriva a 74 anni, lei stessa. Nel racconto il figlio della protagonista, figlio. Insomma... moriva a 74, cioè spesso capita questo, che questa forma di profezia, autoprofezia, capita, insomma. Sì, io darei la Biccia ancora un altro pezzo di lettura, e questa volta è dai diari, e poi vorrei appunto, cioè, se vi va anche di dire qualcosa a voi rispetto a che suggestione vi può dare questo tipo di lettura. Cioè questa parte, questo pezzo, perché per me è stato molto suggestivo. Lo diciamo di chi parla? Sì, allora io volevo fare la sorpresa, comunque a un certo punto lei ha una storia con Carol, allora questa Carol, io scusate la pronuncia, insomma, comunque questa donna che lei ha amato moltissimo, che la affascinava moltissimo, che era così come l'ha descritta Terea, coraggiosa, però insomma anche con poca testa, insomma, Patricia era molto giovane e frequentava questi salotti di queste donne che erano tutte quante lesbiche o omosessuali, come preferite, e che però erano tutte sposate più o meno, quindi avevano tutte la doppia vita. Lei era la povera bischera, come si dice in Maremma, che invece no, non era sposata, quindi era, insomma, e peraltro era un po' sciantona rispetto a queste donne che erano tutte, insomma, chic, erano proprio radical chic, come si dice oggi. E insomma, comunque, la storia del carro finisce, perché finisce, insomma, ve lo leggete, perché, e in una situazione in cui si ritrovano, arriva Carol con una nuova compagna ed ecco che cosa pensa, prova, dice Patricia. Agosto 1947, ore 3 del mattino. Che sollievo sarebbe ucciderla, sapere che quella donna dorme a pochi metri da me nella stanza oltre il corridoio. I miei passi silenziosi sul pavimento di legno, sullo spesso tappeto accanto al letto. Le mie mani che si stringono attorno al suo collo, che premono un cuscino sul suo viso con tutta la loro forza. O forse un laccio sarebbe più micidiale e rapido. La cintura della mia vestaglia di seta è abbastanza robusta da fermare il respiro di quella donna per sempre. Un altro whisky non mi aiuterà affatto a dormire. Niente, niente mi salverà da questi pensieri stanotte. Niente se non l'idea della violenza può darmi conforto. Allora, a parte se Margherita ci vuol dire qualcosa rispetto a questa parte, però appunto la sollecitazione per voi è, ma io alle volte l'ho proprio pensato, e anzi questo pensiero rispetto a qualcosa che non andava, e soprattutto rispetto magari a un amore, fare questi pensieri tutto sommato mi sollevava, almeno a me è successo questo, cioè pensare, io insomma, rispetto a una mia storia ho pensato e cercavo di trascinare una mia amica ad andare a scrivere sul muro una serie di parolacce, e lei però non ci ha mai portato, però ecco, insomma, questo pensiero per me era estremamente consolatorio, quindi voglio dire, mi faceva scendere almeno la rabbia, ecco. Allora, sì, innanzitutto voglio chiarire, qui Carol è un personaggio doppiamente, triplamente fittizio. Carol è il personaggio che lei si è inventata nel Prezzo del Sale, ed è ispirato a una serie di donne, io lo dico anche, no? Carol era Virginia, Lynn, Liz, certo. Era tutte queste donne messe assieme, cioè è il risultato finale di questo tipo di, no? Di esperienza. Poi voglio anche dire, cioè io non è che parlo di Highsmith in quanto mi indirizzo a chi la conosce, secondo me, o a chi è particolarmente, penso anche sicuramente a chi è interessato in lei può la conosce, ma secondo me è quello che uno può leggere la sua storia anche senza essere un estimatore, un'estimatrice di Patricia Aldrich, cioè, perché è come dire, è una storia, è la storia di una vita, è la storia di come certe cose si accadono in noi, ed è la storia di una scrittrice. E vabbè, la violenza, ma sì, certo, la violenza fa parte di noi, la violenza, se non facesse parte di noi, come ci spiegheremmo che succede costantemente attorno a noi? Cioè non è che quelle persone che la praticano, e, senza andare a vedere cose ancora più tremende, ma pensiamo solo ai casi di cronaca che accadono quotidianamente, la violenza è parte di noi. Penso che usarla in questo modo, cioè consapevolmente, facendola risalire al coscio, far diventare materiale di scrittura, sia un profondissimo antidoto all'uso immediato e brutale della violenza, no? Cioè all'agirla. Cioè, Highsmith era una grande disadattata, era una che poteva avere grandi problemi a muoversi nel mondo, ma era profondamente sana di mente. Come Violette Le Duc, un'altra grandissima irregolare disadattata, ma che sapeva, cioè non è che ha avuto episodi anche di follia nella sua vita, ma non una cosa che diciamo che sapevano entrambe è che vita e scrittura sono due cose profondamente interconnesse ma diverse. La scrittura è lavoro e trasformazione, e infatti lei nelle sue storie lei non è mai violenta, lei nelle sue storie non dice, cioè ogni tanto magari c'è con qualcuno, per esempio con quel personaggio che io chiamo Lucy. Mi chiamo Lucy perché pensavo Lucy di Charlie Brown e mi sembrava che Lucy fosse proprio il nome suo. Ogni tanto si mollano qualche ceffone, ma non, come dire, non è la violenza agita, è quell'enorme potenziale di violenza e di negatività che è dentro di noi, che viene fuori come materiale di scrittura. Sì. Infatti, questo è l'aspetto interessante. Ah, scusate, no, vabbè, no, vieni, sì. Questo tema secondo me è delicato e cruciale, questo qui del si potrebbe dire della gelosia. Invece, cioè, secondo me si dice meglio se vediamo come emerge dal libro di Giacobino la tendenza di Beatrice Heimlich a uccidere il terzo, cioè il terzo o la terza. Aprendo fin dalla prima pagina viene fuori che lei fa quelli che io chiamo esercizi di omicidio e li fa fantasticamente. E per fortuna, non lo so, comunque intanto li fa a livello di fantasia e li fa rispetto al patrigno. E c'è una scena che Margherita mette in scrittura in maniera assolutamente emblematica, cioè dice lei, loro due si chiudono in una stanza, lei resta fuori ed è esclusa. Se ci pensate è quello che succede a tutti, no? Quindi, da quando siamo piccoli, la prima coppia, se è una coppia maschio-femmina, perché non è detto, può essere anche femmina-femmina, maschio-maschio, comunque la chiusura della coppia genitoriale in una stanza ti provoca quel e che cosa starà succedendo, mi hanno escluso. Questa storia, secondo me, è abbastanza incandescente perché continua. Cioè, il brano che avete letto prima, no, dei diari, e tradotti e reinterpretati, però insomma mi pare che la linea sia quella, cioè ci fa vedere una Patricia cresciuta che vuole uccidere la terza questa volta, sta al di qua di una porta dove si sta possibilmente consumando, o se non si consuma tanto, l'importante è che si consuma nella fantasia di Patricia, un amplesso tra la sua ex e la nuova fiamma. Ora, questa questione secondo me è rimasta centralissima in Patricia Heimlich. Quando lei annoda le varie questioni, no? il delitto incrociato, giusto? Cioè, uno elimina, cioè, due persone hanno voglia di uccidere qualcuno e si incrociano. E quel qualcuno è sempre un terzo, è un elemento scomodo rispetto a un elemento. Ora, questa questione, secondo me, lei ci è rimasta fissa su questo, che a mio avviso non è cioè questa donna ideale, Carol, non è tanto, e quindi faccio proprio riferimento a delle categorie di natura analitica, non è tanto il frutto di una varia esperienza con varie donne e per cui ne viene fuori una Carol, no, è al contrario, cioè lei è abitata da un fantasma che è costituito da alcuni tratti, uno di questi è la donna traditrice, la donna capricciosa, la donna irregolare, la donna è come Mary praticamente, però non solo Mary, perché Mary Lucy è un tratto, l'altro è questa affascinante seduttrice che sfugge, che magari con cui fa il viaggio in aereo, no? Però sfugge sempre. Io penso che questo tratto della vendetta, io mi vendico rispetto al tradimento, sia molto centrale e sia... Allora, qual è il punto? Lei lo agisce, non lo agisce? Allora, chi lo agisce? Perché la fantasia è comune a tutti, no? Tu l'hai provato, cioè, tutte le persone secondo me sane di mente danno la stura a questa gelosia. C'è un passaggio però. E il passaggio è che poi se l'agisci diventa perversione, a parte il fatto, ecco. Allora, agirlo in un diario è azione? Sì, secondo me sì. Agirlo in un diario è scrittura. Agirlo in un diario è scrittura, non so tu se tu rispondessi così, ma insomma, tu sei scrittrice, non è che... Agirlo in un diario è scrittura, mettersi lì e scrivere una cosa è diverso dal farla. E devo dire, lei ha con la scrittura un rapporto che è molto affascinante. La scrittura è il suo alter ego, è il suo specchio, è la sua... Io a un certo punto dico lei è attorniata da un ectoplasma di scrittura. Prima vi ho detto come se fosse un sacco... La scrittura è una e la scrittura diventa una dimensione onnicomprensiva, no? E diventa la sua stessa identità. Per questo secondo me l'interrogativo può restare aperto, proprio perché c'è questo tipo di scrittura, come tu perfettamente sottolinei, e quindi quando diventa identità. Sì, diventa identità, ma è l'identità di una scrittrice, cioè non resta aperto secondo me. Sì, vabbè, diciamo che lei giocava anche col fatto, perché glielo chiedevano, lei non le compierebbe un delitto, cioè ovviamente una che immagina delitti, come certo. Io penso che lei fosse troppo compiutamente scrittrice per non rendersi conto, troppo compiutamente e totalmente scrittrice per non rendersi conto che la scrittura è una dimensione a sé. Comunque io, quell'operazione che ho fatto io è stato scrivere un racconto che lei, di cui lei ha scritto solo il Cairo, non era questa passione per le lingue insolita in un americano, lei si aveva studiato il francese e il tedesco e ci sono ampi stralci dei suoi diari taccuini scritti in queste due lingue. Normalmente gli americani considerano una eccentricità da parte dei francesi parlare francese, gli italiani parlano italiano. Perché non parlano mai, non parlano l'inglese. Comunque, allora lei, una delle parole tedesche che era entrate come nel suo lessico era Keim, germe, e lei appuntava i Keim, cioè le idee per raccontare. Allora, una cosa che appunta è, perché poi questa è una variante molto interessante, lei ha questa passione per quella che io chiamo Andrea Stern, la ragazza di Berlino, conosciuta negli anni 70, con cui vive un brevissimo amore, folgorante. C'è una differenza di età strabiliante e lei non è gelosa, attenzione, non è gelosia, la sua è una cosa molto diversa, cioè più sottile, più profonda. Comunque, la storia con Andrea dura pochissimo, però poi rimangono in contatto, no? Si vedono negli anni successivi. Andrea è una ragazza molto bella, che ha una carriera, una disegnatrice di moda, un'attrice, era nella vita reale, aveva fatto dei film con Ulrike Oettinger e poi fa tutte queste cose. Lei l'ammira moltissimo perché rappresenta un ideale compiuto, perfetto, la donna forte, sicura di sé, che ha un lavoro, che ha talento, che sa farsi valere, che si farà una strada, eccetera eccetera eccetera eccetera. A un certo punto Andrea però perde di strada la sua carriera, cioè perde di vista la sua carriera, insomma si va in un po' in crisi, si cambia, no? Nel passaggio tra i 25 e i 35 anni Andrea cambia e a un certo punto si ritrova che vive in una casa occupata a Berlino, una comune, c'è il sussidio di disoccupazione, anche ingrassata. Pat Aslin non glielo perdona, cioè non va fuori di testa quando si rende conto perché ha ucciso l'ideale. Allora il Keim è... Lei, siamo ancora nel momento in cui scriviamo in profondo travestitismo, una donna incontra un suo ex amante che lei ha amato infinitamente, che era un uomo bellissimo, bla bla bla bla, che ha tradito l'ideale, lo uccide perché se lo merita. Allora io ho scritto questo, però guarda che c'è un meccanismo della mente, un meccanismo. Io me ne sono resa conto, per esempio, pensa quando hai una storia con qualcuno e questa storia finisce male, in maniera molto dolorosa, no? Il fatto di chiudere dentro di te certe cose, dimenticare, no, non solo non dimenticare, ma troncare, equivale a un omicidio, cioè equivale a un assassino, cioè, tu è come se lo uccidessi quella persona, tu puoi decidere di ucciderla mentalmente, no? Magari nel momento in cui ti comporti con la massima mitezza e la massima, come dire, fair play, poi però tu rendi conto che a un certo punto per sopravvivere devi uccidere questo fantasma. E lei lo fa, insomma, fa queste Io credo che lei faccia costantemente questo tipo di operazioni. Io ho scritto questo raccontino in cui lei uccide, cioè la sua, suo personaggio, la donna uccide l'uomo più giovane con cui ha avuto una storia. Ho immaginato come poteva ucciderla, perché lei in quel momento viveva in Svizzera e lei poi cambiava il setting dei suoi gialli secondo dove viveva e dei viaggi che aveva fatto. E quindi come potevo uccidere, era già un momento in cui lei tendeva a uccidere nel modo più economico possibile. Economico vuol dire eliminiamo la fisicità al più possibile, eliminiamo la brutalità dell'omicidio. L'ideale è che il fantasma si faccia fuori da solo. Infatti nell'andare avanti i suoi personaggi tendono a morire cadendo in uno stagno, negando, cadendo dalle scale. In questo caso basta una spintarella, esatto, molto economica, per far cadere nel fiume in piena la vita. Sì, e quindi insomma, ecco, spiegati molti aspetti. Allora, io andrei su un'altra lettura, e sarà Rosy stavolta a leggere, ed è in relazione alla pubblicazione, l'ultima stesura di Carol. Come ha detto ampiamente Margherita, Carol è l'unico libro in cui due donne comunque hanno una storia, ed è una storia che da qualche parte è vincente. Però questo libro, che è stato tanto amato ma anche tanto odiato, almeno da quello che ci dice Margherita, è stato veramente un percorso anche molto duro. Nasce appunto con il titolo e sotto pseudonimo, lei lo firmerà con uno pseudonimo, con Il prezzo del sale, ma prima ancora viene pensato come Tantalo, quindi cioè proprio il peggio della penitenza, insomma, nonostante tutto, e poi viene pubblicato come Carole e ancora, quindi lei finalmente lo firmerà. E sentiamo. Scrivere non è un gesto neutro, si scrive con il cervello ma anche con il sangue, il passato, il sesso. Quanto le è costato quell'antico Tantalo? Mentre ancora lo scriveva, prima che avesse un editore, una copertina, prima di chiamarsi Il prezzo del sale e diventare un oggetto da potersi prendere in mano, quando ancora era dentro di lei, attaccato al suo corpo e alla sua mente da migliaia di invisibili filamenti, brividi di gioia si alternavano all'angoscia. Paura, vergogna, ansie improvvise che la stordivano come vertigini. Alzava gli occhi di colpo dal foglio e si ritrovava davanti allo sguardo di trionfante ribrezzo di sua madre, di Rosalind, di Ned, di Lucy, di quante altre persone. Nessuno era con lei in quell'impresa, era sola. Si è sempre soli quando si scrive, ma nel caso del Tantalo la solitudine non era un privilegio, era una condanna. I giudici, Ned, sua madre, Rosalind, di nuovo sua madre, soprattutto sua madre, erano un tribunale, unanime nella sua sentenza. Perché scrivi questo? È così che vuoi essere conosciuta, ricordata? Che bisogno hai? Che senso ha? Sì, è proprio questo che voglio scrivere. Il coraggio di Carol, il suo modo di spostarsi i capelli dal viso e di fumare, la sua spavalderia, l'amore di Carol e Therese, splendido e fragile, sempre in pericolo, la gioia che pulsa nelle vene di Therese alla vista di Carol. A volte l'ha odiato, ancora prima di metterlo al mondo, quel Tantalo a cui non ha dato il suo nome. Anni dopo le chiederanno di riconoscerlo, come si riconosce un figlio bastardo che ha fatto fortuna in modi oscuri. Esiterà a lungo, ma perché? Che volete da me? Le diranno che i tempi sono cambiati, che certi argomenti non sono più tabù. Risponderà con uno dei suoi grugniti di incredulità. Le diranno che i lettori sono ansiosi di leggerlo, che se porta il suo nome, i critici gli accorderanno finalmente l'attenzione che merita, che è un libro coraggioso, bello, importante. Decisivo sarà l'argomento che il libro continua ad essere ripubblicato in edizioni pirata che la fanno franca perché non c'è un nome, un'attribuzione certa. Nessuno può rivendicarlo se non lo farà lei. Tirerà l'ultima boccata dalla sua Gauloise senza filtro, le fuma sempre fin quasi a scottarsi le dita, e spegnerà il mozzicone con gesto ostinato e rabbioso, e finalmente dirà sì, purché smettano di seccarla. Sarà ripubblicato per l'ennesima volta con il suo nome. Gli cambieranno anche il titolo, si chiamerà Carol. Sì, comunque io l'ho scritto con parole mie, ma quello che, cioè, la vita di Asmi, i sentimenti, le sue espressioni sono questi, cioè, non pensate che io ho inventato come dire, se fai un ritratto a qualcuno magari gli metti un vestito verde invece che rosso, ma l'espressione è sua, eh? Cioè questo è veramente quello che lei ha vissuto scrivendo quel libro. Sì, infatti qui la domanda che si pone è: com'è questa scrittura di Highsmith? Cioè, il suo stile, lo hai accennato già, l'hai detto adesso praticamente, per prima insomma, cioè il suo stile ha un'evoluzione nel tempo. Perché si modifica? Cioè il suo percorso, lo scendere dentro di sé attraverso la scrittura, le permette questo? Le permette questa evoluzione? E questo percorso, in questo percorso, in questa evoluzione attraverso la scrittura, tu ti ci puoi riconoscere come scrittrice, come scrittora? Nel senso che anche per te c'è stata un'evoluzione, in che cosa ti riconosci? Beh, perché sei nostra digna su Highsmith, insomma, in parole povere, no? Questa fascinazione, come dicevi. Sì, non mi colpisce. Perché la fascinazione su Asmi? Certo, io non trovo che lei sia un personaggio su cui potremmo scrivere non uno, ma 10 libri, insomma. Allora, mi hai fatto tante domande. Allora, il suo stile è stato criticato da molti critici. All'inizio c'era più ambizione stilistica, ma lo stile è una cosa che fondamentalmente non l'ha mai interessata. Lei interessa raccontare una storia, interessa la narrazione, ho una storia da dire, i personaggi devono fanno questo. Quindi lo stile, diciamo che man mano si minimalizza. Se parliamo di scrittura, pure semplice, il modo di raccontare. In alcuni casi penso sia dovuto anche al fatto che lei era praticamente alcolizzata, quindi questo diciamo che aiutava l'immersione era in controllo di sé, ma insomma beveva più di quanto mangiasse e aiutava l'immersione, ma sicuramente non aiutava lo stile, perfezione stilistica. Quello che cambia e varia nel tempo è il tipo di storia che lei racconta, gli schemi delle storie, i legami che ci sono fra i personaggi, il come si intrecciano le vicende. Ci sono delle costanti che si mantengono per un periodo, poi cambiano, insomma, questo mi sembrava estremamente affascinante. Penso che succeda a tutti, cioè, non è che a me succede in maniera estremamente diversa, per esempio io non scrivo così, cioè, certo. Questo è evidente, non è che vado a cercare lei quello che scrive. Io l'ho già detto perché mi interessa questa fissazione, l'ho detto perché cercavo in lei una verità. Ora, per esempio, potevo cercarla anche in Violette Le Duc, ma su Violette Le Duc ha già lavorato gente che ha detto delle cose molto importanti. Su Highsmith nessuno ha detto le cose che io volevo dire, quindi mi sembrava una cosa che si poteva fare, insomma. Doverosa. Sì, e niente, e quindi, come ho accennato all'inizio, ci tiene anche molto Margherita perché ne abbiamo parlato, questo suo vivere un po' da eremita, stare in solitudine, non a caso lei cambia, no, molte case, in molte situazioni, anche se poi si stabilisce stabilmente in Svizzera, però non nelle città. Lei ha odiato abitare a New York, lei ha bisogno di uno spazio, di un luogo che è raccolto, che la accolga e in cui lei si possa raccogliere. Tant'è vero che poi sulla casa lei, quindi sul luogo, no, fisico, lei dice cose ambivalenti, no? Che è da una parte prigione, ma da un'altra parte lo spazio creativo dove lei ha la possibilità di scrivere, perché poi la scrittura è sempre fondamentale. Ma quindi questo suo essere eremita non è che la allontana dal mondo, che lei non vede il mondo. Lei ha un rapporto con la politica che è anche estremamente significativo e interessante. Lei sa prende delle posizioni facendo anche outing, e in maniera molto decisa. A questo proposito ci piace leggere una lettera che lei scrive questa Mrs. Bryant, che così, non so se si pronuncia così in inglese. Sì, Anita Bryant. Anita, era sulla Bryant che insomma avevo di qualche problema, e che era stata una reginetta che aveva fatto la pubblicità dei prodotti. Sì, ancora viva purtroppo. È ancora viva, sì. E che aveva poi però fatto iniziato una campagna omofoba contro qualsiasi forma di libertà che gli omosessuali potessero avere negli Stati Uniti, inneggiando alla famiglia, uomo, donna, bambino, e soprattutto da proteggere, per proteggere la, i bambini da insomma, sterilli e questi diavoli che sono, no? I gay, le lesbiche, evidentemente. Vai, Nancy. Fromoncourt, Francia, maggio 1978. A me si sono detta Bryant, io che sei. Cara Miss Bryant, benché il cara in questo caso sia soltanto una convenzione retorica, le notizie delle sue valorose imprese giungono fin su questa riva dell'Oceano Atlantico e mi spingono a scriverle in qualità di cittadina americana, nonché di persona che si ritiene direttamente oltraggiata e danneggiata dalle sue azioni e dichiarazioni. Dopo aver propugnato con successo un'iniziativa politica intesa a revocare una legge antidiscriminatoria contro gli omosessuali in una contea della Florida, con l'appoggio di un nuovo politico repubblicano che rilascia dichiarazioni deliranti, lei si è lanciata in una crociata di odio a livello nazionale. Lei ritiene che gli omosessuali debbano essere banditi dalla società allo scopo di salvare i nostri figli, che rischiano di cadere preda del loro adescamento e proselitismo. Lei ha inoltre dichiarato che se riconosceremo i gay il diritto di esistere alla luce del sole, dovremmo riconoscerlo anche alle prostitute, a quelli che vanno a letto con i San Bernardo e che si mangiano le unghie. Letterale, questo è letterale. Sì, questo è tra virgolette, quindi è proprio... Il che dimostra quanto ristretta sia la sua visione della società in cui vive. Posso garantirle che in quella società pieni diritti sono concessi non solo ai mangiatori di unghie, ma anche a coloro che adescano bambine e ragazze, che frequentano abitualmente prostitute e che commettono una serie di altre azioni non del tutto raccomandabili, sebbene lo facciano quasi sempre di nascosto. Sto parlando di rispettabili padri di famiglia e cittadini al di sopra di ogni sospetto, nel caso non l'avesse capito. E quante volte la prostituzione, egregia Mrs. Bryant, viene esercitata all'interno delle famiglie da donne che preferiscono vendere il proprio corpo legalmente o vi sono costrette, piuttosto che guadagnarsi da vivere con onore nel mondo. In quanto ai San Bernardo mi astengo dall'esprimere un parere perché non conosco l'argomento. Preferirei che lei lasciasse fuori gli animali, dotati di una dignità e di una purezza ormai sconosciuta agli uomini, dalle sue fanaticazioni piene di odio. Con la lodevole intenzione di salvare i nostri figli, lei tuona dal pulpito della sua facile notorietà, scagliandosi non solo contro gli omosessuali, ma anche contro la scienza e contro l'unica cosa veramente sacra e rispettabile che esista, il pensiero umano, la sua capacità di sconfiggere l'ignoranza e la tenebra e di gettare le basi per la comprensione reciproca e la cooperazione di tutti gli esseri umani. È soltanto a partire da una profonda ignoranza, infatti, che lei può affermare che i gay adescano i giovani e li convertono. La scienza moderna, soprattutto quello che studia la psiche, ci assicura che questo è totalmente falso. Non si diventa certo omosessuali per conversione, né per adescamento, ma per fattori molto profondi che riguardano la storia personale dell'individuo a partire dai primi anni di vita e sui quali lei non può farci assolutamente nulla. Lei vuole salvare da noi i figli degli altri, ma io mi chiedo, chi salverà i suoi dalla sua carica di odio e di menzogna? Chi salverà i giovani americani da agitatori pieni di rabbia e di rigore come lei? Per fortuna, pare che ci pensino da solo a salvarsi, se sono vere le notizie dei boicottaggi alla sua azione e ai suoi sponsor. Un brindisi a lei, Mrs. Bryant, ma senza succo d'arancia. Se il mio nome non le dicesse niente, vada in una libreria e chieda di me. È anche possibile che in America neppure i librai la sappiano lunga sul mio conto, ma in Europa, le assicuro, non è così. Se la prenda pure con me pubblicamente, se desidera, sono pronta ad accettare la sfida. Che anno è questo? 78. Ah, questa lettera? 1968. Questa lettera, spiego un particolare, un brindisi a lei ma senza succo d'arancia, questa Anita Bryant guadagnava facendo la pubblicità per il produttore di succo d'arancia della Florida, cioè era un... stava in televisione, cioè faceva questa cosa. Come si dice, persa, un testimonial, la persa, a seguito di questa azione fatta dalla comunità gay e da tutte le azioni di protesta che hanno fatto, gli hanno tolto il contratto. Di fatto Anita Bryant, le fortune di Anita Bryant si sono affossate dopo questa sua azione anti-gay. Questa lettera sta incastonata nel diario amoroso di... della storia d'amore fra Pat e Andrea Stern, cioè io personalmente l'ho messa in questo punto dopo il resoconto molto stringato, perché i diari diventano più stringati man mano che lei va avanti, scrive in modo più succinto, questo è normale, dell'unica settimana che hanno passato insieme a Londra, tra questo resoconto e l'inizio di quello che è un periodo di snervante e angosciosissima attesa che lei venga poi a trovarla nella sua casa in Francia, non verrà mai Andrea. Questa lettera è stata scritta in quel momento, io l'ho messa lì perché non a caso è stata scritta in quel momento, lei non aveva ancora riconosciuto Carol pubblicamente, non viveva ancora in una totale... pubblica negazione, privatamente lei non diceva, tanto lo sanno tutti come sono io, però dai giornalisti eccetera lei non si rivelava. Scrive una lettera del genere, l'Anita Bryant non avrà fatto, l'avrà buttata nel cestino, però poteva in qualche modo usarla contro di lei, perché è una lettera chiaramente, cioè lei gliela mandata, firmata eccetera. Quindi la vedo proprio come l'effetto provocato dall'incontro con la ragazza molto più giovane di lei, molto più libera di lei, che recitava nei film lesbici, definire lesbici i film di Ulrike Oettinger, non vorrei minimizzarci, cioè comunque però Ulrike Oettinger, diciamo, espliciti, una regista piena di fantasia, con un senso estetico pazzesco, cioè una che comunque dove c'erano comunque... In particolare aveva fatto Madame X, il personaggio nella reale, nella storia, si chiamava Tabea Blumenschein, e era stata protagonista di vari film. Insomma, quindi questa lettera è, secondo me, è chiaro, no? Nel mezzo preciso di questa storia d'amore, lei scrive questa lettera, mi sembra chiaro perché. Certo. Sì. E quindi insomma, quindi abbiamo anche a tutto tondo, no, scandagliato questo personaggio, quindi dal l'intimistico, il personale, il percorso con la famiglia, la madre, le amanti, che ne ha avute tante, tantissime, il suo peregrinare, il suo cercare il luogo, il trovarlo, il mettere radice e poi toglierle, insomma è un personaggio veramente spigoloso, veramente... interessante, vi ripeto, io ho trovato questa lettura in certi momenti anche entusiasmante, era che non mi volevo staccare, in parole povere, volevo andare arrivare in fondo, insomma, vedere chissà che mi vorrà di fino in fondo. E che cosa? Quindi il rapporto con la politica e un altro rapporto conflittuale, e con questo vorremmo chiudere, e poi se volete dire le cose naturalmente, però come esposizione, il rapporto che aveva con la stampa. Margherita l'ha detto più volte che insomma Patricia Highsmith, cioè, li teneva veramente a distanza, non gli interessava relazionarsi con i giornalisti, le giornaliste, e comunque non amava che il loro modo di mettersi in relazione era perché volevano farsi i cavoli sua, e lei non aveva voglia di parlarne con chi che sia, tantomeno appunto con i giornalisti. E quindi leggiamo una lettera di commiato che lei fa ad una giornalista che va, quando lei era ancora in Francia, va a intervistarla, ed è Madame Clermont, e quello che succede, insomma, che è molto carino da questa parte poi dei diari leggersi un po' tutta la vicenda con questa... Madame Clermont e la Highsmith si frequentano per un po', perché la Clermont deve scrivere un articolo su di lei, e quindi la frequenta, la porta a mangiare fuori. Lei è molto contenta di questo, perché appunto, come diceva Margherita, è una tirchiona, e siccome il giornale offre i pasti, lei è felice di questo. Si lamenta un po' per non aver potuto portare la gatta e dividere con lei la bistecca, però va bene, insomma. A un certo punto la Clermont ha una cattiva idea, perché la Clermont comincia a dire c'è un'amicizia fra di noi, nella sua testa lei pensa, avendo in qualche modo anche capito che forse per certi versi, correggimi Margherita se sbaglio, la Highsmith è un po' invaghita di lei. Oppure lei piace pensarlo. Oppure lei, io piace, ho conosciuto personalmente una signora al cui piaceva pensare che Highsmith l'avesse corteggiata. Io non lo so se Highsmith l'aveva corteggiata, certo la signora piaceva pensare. Non lo possiamo sapere. Comunque, insomma, a un certo punto lei c'ha questa malaugurata idea, le dice che vuole scrivere, vuole diventare la sua biografa. Apriti cielo, ovviamente l'Highsmith non è felice di questa uscita. E quindi le scrive una lettera in cui le dice: guarda, non esiste proprio questa storia, non si può fare. E, la faccio breve. E, evidentemente la Clermont non ci sta, e quindi continua a cercare di contattare la Highsmith, e quindi a un certo punto, nel marzo del 79, da Framoncourt, Patricia scrive a Madame Clermont. Madame Clermont, le ho già detto che i miei impegni non mi permettono di vederla. La ringrazio delle rose che mi ha mandato. Non doveva disturbarsi. 3 dozzine sono veramente troppe. Non ho neanche un portafiori in cui metterle. E ho dovuto lasciarle fuori in giardino dentro una bacinella. Così si sono rovinate, visto che la notte scorsa è piovuto. Saluti, Patricia Highsmith. Io devo dire la verità, su questa cosa mi sono piegata in due delle risate. Che vogliamo fare? Nell'aprile dell'80, quindi l'anno dopo, evidentemente dietro ancora insistenze della Clermont, Patricia scrive: Madame, ero fuori casa quando lei ha suonato alla porta, ma anche se fossi stata in casa non le avrei aperto. Le ripeto che non voglio nessuna biografia, la mia vita sono fatti miei, la diffido dal riprovarci e la avverto che ho messo in guardia tutti i miei amici contro di lei. Nessuno di loro le concederà interviste dopo la mia morte. Non otterrà niente da loro, e se insisterà nel pubblicare una mia biografia, il mio esecutore testamentario le farà causa. Che i biografi come gli sciacalli si buttino sul mio cadavere se lo desiderano. Quando sarò morta non sentirò più dolore, ma finché vivo intendo tenerli alla larga. Saluti, Patricia Highsmith. Infatti no, a un certo punto la mia editor, che è una ragazza molto gentile, molto, diciamo che ho avuto anche la fortuna di lavorare con un team veramente bello, mi ha detto: ma allora ho pensato, ma se ti avesse conosciuto ti avrebbe odiato. Ho detto: probabile. Infatti avevo pensato anche sì, probabile. E questa è la meraviglia della scrittura, che ti permette di raggiungere anche... Anche la fortuna, anche insomma, questo, uno fa in genere, sì, fa questi coccodrilli, li fa dopo che uno è morta, per cui diciamo l'olio non arriva più. Comunque lei, per lei, lei in realtà era diligente, sì, quanto scrittrice professionista, lei faceva tutto quello che doveva fare, le interviste, tutto. Però non era un piacere, per lei paragonava l'intervista ad andare dal dentista a farsi cavare i denti. Ed era nota nell'ambiente per avere 3 risposte. Alle domande: sì, no, la domanda non è pertinente. Quindi non è che desse molta soddisfazione alla stampa. Senti, una stalla che è proprio per me. A parte appunto i libri, chiamiamoli gialli, anche se non sono gialli quelli della Highsmith, insomma, non sono, hanno una, penso, una dicitura a parte, ma non saprei neanche quale. Invece i racconti. Allora, io per esempio ho amato tantissimo Delitti bestiali, che credo che non ci si trovi più in giro, credo che dovrebbe ancora un'edizione, forse la prima in assoluto, e anche Piccoli racconti di misoginia, che trovo deliziosi. Sull'aspetto appunto dei racconti, che mi piacciono particolarmente. Allora, i racconti lei ne ha scritti da giovane, perché ovviamente essendo una scrittrice, cioè come tutti i giovani si cimentava anche all'inizio con queste forme di scrittura, perché cercando di essere pubblicata su riviste. Già il suo primo racconto era delizioso, il primo racconto che ha avuto, diciamo, era la storia di una l'eroina si chiamavano. Era la storia di una ragazza, diciamo, un po' disturbata, che viene assunta come, che ha una vita molto molto difficile, viene assunta da una famiglia come babysitter, una famiglia meravigliosa, si le trattano benissimo, lei è così piena di gratitudine che vorrebbe fare qualcosa per loro, che fare per loro? Salvarli, ma poiché non, nessun pericolo li minaccia, lei dà fuoco alla casa per poterli salvare, senza riuscirci peraltro. Questo racconto che è già un racconto umoristico, cioè lei aveva esordito, nei suoi documenti c'è un romanzo umoristico che lei scrisse nei suoi 20 anni, quindi era molto forte in lei questa vena, questo humor. Per esempio nei diari, fra una storia d'amore, una cosa, cioè ci sono per esempio gli imerico sceni, tipo c'era un barbone che gli piaceva farlo nel furgone e cose di questo tipo, cioè ci sono questi vari aspetti, no? Però lei al racconto torna veramente solo a un dato momento negli anni della sua maturità, quando ha stabilito la sua carriera, insomma, che è stata sempre anche un po' incerta, non è che... Comunque, e comincia a scrivere questi racconti, cioè diciamo questa prima grossa, e sono dei piccoli racconti di misoginia, che sono addirittura quasi filosofici, diciamo, no? Al limite del, così astratti, sono racconti astratti, in uno stile totalmente, che lei scriveva per proprio diletto, proprio per... E poi seguono i delitti bestiali, perché qui, cioè nei racconti viene fuori le cose che nei romanzi, come dire, non si potevano in qualche modo inserire. Uno era lo humor grottesco, eccetera. Due, il suo amore per gli animali. Nei delitti bestiali gli animali uccidono gli uomini che li hanno maltrattati, che gli hanno fatto delle cose brutte. E anche la vena satirica sociale, lo sguardo sociale. Per esempio in Catastrofi naturali e innaturali c'è tutto un discorso, ci sono vari racconti che vanno dall'ecologico al politico, e che sono a volte esilaranti, a volte anche molto, come dire, scorretti, molto... Come dire. C'è un racconto, per esempio, che mi è venuto in mente, ci ho pensato parecchio in questa volta, sulla maternità surrogata. Degli anni 70, perché già negli anni 70 si praticava la maternità surrogata, non come adesso con l'ovulo preso di lime e sollace, cioè in maniera penso più semplice, quindi, dove lei era fortemente a favore della maternità surrogata, perché lei era a favore proprio della totale libertà delle donne nei confronti del loro corpo, devo dire anche di fronte a una casistica che era molto diversa da quella che abbiamo adesso, no? Perché erano veramente i primi esempi di ragazze che facevano un bambino per qualcuno che ne aveva bisogno, ma in maniera diversa da come poi si è configurata la cosa. Insomma, ci sono tante tematiche. Tu parlavi prima di politica, poi invece questo invece veniva fuori nelle lettere. Lei a un certo punto, tratto proprio da vecchia pazza, insomma, comincia a scrivere lettere al Senato, ai vari uomini politici americani, lettere firmate da altri, cioè si inventa una serie di persone. Sì, è vero. Beh, era un'autrice, scusa, io lo capisco. Così era più gente che diceva cose. Erano tutti che scrivevano da quell'area che stava tra la Svizzera, l'Italia e la Francia, dove lei si muoveva, la Germania dove si muoveva o aveva amici, insomma, le lettere venivano spedite da posti diversi. E quindi, e questi protestano sostanzialmente contro l'appoggio americano a Israele. Sì. Lei ha preso una grandissima posizione su questo. Grande soggetto. Lei sì, notoriamente la davano per antisemita, antirazzista, insomma, era un pochettino, era razzista nei confronti degli ebrei, era razzista nei confronti dei neri, era razzista si permetteva delle cose. Infatti questa sua amica, che è una signora molto, molto carina, che io ho intervistato, Vivian, che compare nelle ultime due pagine, un'americana, mi aveva detto, lei era un equal opportunity offender, cioè dava a ogni categoria le stesse opportunità, le offendeva tutte. Qualunque categoria umana offendeva in maniera senza era democratica sì. cioè per esempio offendeva le persone grasse, offendeva le donne che non lavoravano, offendeva le, cioè, di ogni, ma gli veniva così, insomma, come dire, non so, era una roba naturale, gli veniva naturale, offendeva le persone. Infatti io in questa cosa qui dell'intervista per esempio con la giornalista ho messo, a un certo punto lei fa una battuta infelice sul peso, la giornalista che negli ultimi tempi è ingrassata la odia, no? Ma non sa cosa dirle, lei offendeva tutti, insomma, e poi dopo manco se ne ricordava nella certo che gli veniva così spontaneo, quindi gli veniva spontaneo, è un tratto dell'autismo questo, sì, è un tratto di tipo autistico. Io penso che lei avesse alcuni aspetti autistici, del carattere autistico, se li portasse dietro. Insomma, del resto il cappello facevano... è grande. Eh? Del resto lo spettro dell'autismo, sì, ora, sì, oggi sì, si parla di spettro dell'autismo, quindi non si deve pensare all'autistico, il bambino che non parla, fermo, bloccato, eccetera. Sono enormi e quindi ci sono... cioè, oggi senza... questo diciamo che possiamo definire come non saper stare al mondo, no? Vabbè, ognuno di noi ha le sue patologie, lei è... poi in realtà, nella realtà dei fatti, lei non è che, come dire, agisse, anzi lei era super contraria a ogni tipo di discriminazione, no? E poi però praticava questa forma di offesa generalizzata, no? Proprio nei confronti di tutti. E che dire, era così. Era un gran personaggio. Era un grande personaggio. No, io volevo dirlo perché non volevo appunto pensare che una perché è ribelle, perché non è per bene, è comunque sempre meravigliosa. Poteva certo essere anche stronza. E, in questo però era di una grandissima onestà. Ecco. Noi che l'abbiamo letto il libro ci è piaciuto. Questa è la chiosa. E soprattutto... è resa il personaggio è reso molto bene, quindi se per chi ha letto Highsmith magari la conosce attraverso i romanzi, è bello confrontarsi con quello che l'analisi che ha fatto Margherita nella sua biografia romanzata. Per chi non l'ha letto i romanzi è bello perché è un approccio, un primo approccio che può far determinare un ulteriore approfondimento, no? Determinare un ulteriore approfondimento. E questo è. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe.